colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Buonasera a tutti, questi sono i colori dell'anima, siamo a Radio Alma 101.9 FM. 21h. I colori dell'anima. E siamo sempre qui a Radio Alma, come dicevo, 101.9 FM. Siamo qui a Saint-Gilles, oggi è il 26... Ci lasciano le cose a metà. Oggi è il 26, lunedì 26 novembre e come sempre lunedì dalle 9 alle 10 ci sono i colori dell'anima. Oggi è il nostro turno, siamo alla regia, c'è Angelo. Ciao a tutti! Alla co-regia e co-intervista, cioè il qualunque, c'è cioè Giampaolo anche alla traduzione oggi. Ciao a tutti. E io sono Carla. Oggi abbiamo un tema particolare che ci riguarda e che scopriremo lungo quest'ora insieme, dalle 21 alle 22, quindi colori dell'anima. Se volete chiamarci, il numero fisso è lo 02 345 26 56, o altrimenti se volete scriverci sulla nostra pagina Facebook e interagire con noi. Giampaolo, la nostra pagina Facebook è sempre Angelo e Carla On Air. Noi vediamo i vostri messaggi, vi posteremo come sempre delle foto dei nostri ospiti, della nostra trasmissione, e aspettiamo come sempre i vostri commenti, i vostri saluti. Oppure potete sempre interagire con noi mandando un messaggio. SMS, che ormai tutti sapranno che è il mio numero di cellulare, quindi è 0471 40 78 04, ripeto, 0471 40 78 04 per chi chiamasse dall'Italia, e 0032 471 40 78 04. Ok, ritorniamo in studio per alcuni pochi istanti prima di lanciare il primo pezzo. E ritorniamo in studio per rivelarvi il tema della serata, il tema dei colori dell'anima di stasera, ossia perché sto con gli italiani. Ma questa domanda non la rivolgiamo a noi stessi, ovviamente la rivolgiamo a qualcun altro. Stasera in studio con noi Stéphane Mercier, che conosceremo lungo questa serata. Sì, non gliela apriamo ancora, non gliela apriamo ancora. Ma dai, almeno un buonasera. No, dai. Va bene, dai, allora apriamoglielo solo per buonasera. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, ciao. Buonasera. E un balancé le prochain morceau? Abbiamo qui pronto per essere lanciato on air un giudice di Fabrizio De André con la PFM. Anima, siamo di nuovo qui dalle 21 alle 22 con Giampaolo ed Angelo e Carla, e con un ospite che abbiamo presentato qualche istante fa prima di ascoltare il giudice. E il tema della serata è questo: perché sto con gli italiani? E questa domanda la poniamo appunto al nostro ospite stasera e gliela rivolgiamo. Stéphane Mercier, pourquoi tu joues et pourquoi tu es avec autant d'Italiens? Stéphane, perché tu ti piace suonare? Perché sei circondato da tanti progetti con gli italiani? Mais il y en a un peu partout dans le monde, donc ayant voyagé, j'en ai rencontré un peu partout. Et puis il faut dire aussi que le nombre de bons musiciens italiens, on peut pas les compter. Quindi gli italiani sono tanti nel mondo, quindi si incontrano molto facilmente. E ma poi forse, la qualità... Forse Stéphane non sa contare, però. Dicevamo sì che Stéphane apprezza molto il gusto musicale degli italiani. Mais on est rentré vraiment directement au cœur de la question et on va tout dévoiler comme ça tout de suite. Je crois qu'il faut démarrer de quelque chose de concret qui appartient à Stéphane Mercier, comme le prochain morceau que Angelo va mettre tout de suite. Oui, en fait, le prochain morceau, c'est le premier morceau de... Ah, devo parlare in italiano, ovviamente. Non ti preoccupare, sono parlato. Sono pagato allora, come traduttore. Il primo brano che andiamo ad ascoltare, io invito tutti gli amici di Facebook a mettere su Google Stéphane Mercier, così vi fate anche un'idea di chi è questo baldo giovane. Stéphane con la step, S-T-E-P-H-A-N-E, Stéphane con la H per Stéphane. Gli italiani. No, perché gli italiani, Stéphane, devi capire, l'italiano on est pas très, on est un peu avec l'alphabet, c'est un peu comme ça. Stéphane Mercier, lo mettete su Google e vi fate un po' un'idea di chi è questo baldo giovane, e noi andiamo ad estrarre dal disco Flor de Luna il primo brano che si intitola Night Men Drinks. E siamo sempre qui a Radio Alma, i colori dell'anima, 101.9 FM. Se volete chiamarci, il numero fisso è lo 02 345 26 56. E la pagina Facebook è... La pagina Facebook è attivissima, Angelo e Carlo On Air, già abbiamo diversi amici che ci stanno seguendo e salutiamo, approfittiamo per salutare quelli della prima ora, Elena e Michelangelo Martino, ma anche Loreto Galan, Raffaella Palombella e Rachele Cucco. Ciao Rachele, la conosco bene. Ciao, Rachele. Siamo cresciuti insieme, Rachele. No, i nostri genitori sono la gelosia. I nostri genitori a loro volta sono cresciuti insieme e anche con Rachele siamo cresciuti insieme anche ad Elena e ad altre persone. Poi è molto bello, c'è Loreto Galan, che forse ricorderete, è una nostra ospite in trasmissione, mentre aspettiamo che Carla si riprende. È andata, eh? Allora, dicevo, mentre Carla si riprende, forse vi ricorderete di Loreto Galan, la nostra interprete dei segni, che ci continua a seguire. Noi la salutiamo. Ciao Loreto, e ciao anche a Michelangelo Erea. Michelangelo, facci sapere di questo letto che hai comprato, che i nostri ascoltatori stanno ancora in pensiero per il letto. Vogliono sapere come va. E adesso, Carla, ci sei? Allora, riprendiamoci, ma siamo qui stasera tra l'altro per un motivo in particolare, ossia per il nostro ospite Stéphane Mercier, sì. Che, sì, pronto, ci sei, allo, al quale abbiamo già posto la questione principale, che è il titolo della nostra trasmissione, perché suona con tanti italiani, e abbiamo avuto una piccola perla di saggezza qualche minuto fa, ma conosciamolo un po' di più. Stéphane, qu'est-ce que tu voudrais dire à qui nous écoute, qui peut-être ne te connaît pas, ou cosa potresti dire? Moi, je suis un jazzman, donc c'est ce que je connais de mieux, c'est le jazz. Et donc pour ceux qui veulent savoir un peu la place des Italiens dans le jazz, c'est quelque chose d'énorme. Le premier enregistrement, commercialisation d'un disque, c'est un Italien, quelqu'un d'origine italienne qui est le leader, donc c'était un Italo-américain, mais depuis ça n'a pas arrêté, et on cite beaucoup des Américains comme des grands jazzmen, en réalité il y en a énormément d'origine italienne, Joe Lovano, Bergonzi, Calderazzo, il y en a vraiment beaucoup. George Gazzone. Si dice tanto che gli americani sono sti jazzmen, ma alla fine sti americani sono tutte d'origine italiana. Joe Lovano, George Gazzone. Quindi questi italiani ci sono e si fanno sentire. Ma noi vogliamo un po' sapere, un po', Stéphane Mercier, abbiamo ascoltato questo magnifico pezzo dall'album Flor de Luna, Night Men Drinks. Mannaggia questo inglese stasera. E magari può parlare di questo disco, di questo primo progetto, che so è stato uno dei primi, magari, Carla. Ma in fait tu nous parles tout de suite des Italiens et tout ça, et mais finalement tu es là et nous on voudrait te connaître, toi en première personne, et peut-être parler aussi du morceau qu'on vient d'écouter. Oui, alors moi je suis belge et j'ai eu ma première éducation en Belgique. Je suis parti 10 ans aux États-Unis et 2 ans en France. Après les États-Unis, donc Boston et New York, j'étais à Paris, et on va dire que le premier disque, je l'ai fait, c'est mon deuxième disque en réalité. Mm-hmm. Le premier, je l'ai fait en Belgique avec un groupe de Boston, et le deuxième, j'ai fait à New York avec un groupe assez international. Et ensuite, quand je suis resté à Paris, j'ai rencontré beaucoup plus d'italien. Ed ecco qui che presentiamo il nostro segreto ospite che ci viene in aiuto. ci viene in aiuto perché sembriamo tre emeriti mongoloidi e apriamo il nostro microfono al nostro grandissimo segreto ospite che si chiama Paolo Loveri. Eh sì, in effetti quello che ha detto è che lui prima ha registrato il primo disco a New York, poi a Boston e poi ha vissuto 2 anni a Parigi, dove ha incontrato tantissimi italiani. È uno dei fatti, per il fatto che suona con tanti italiani. Di la verità che ti sei scordato pure tu. Cosa? Di la verità, quello che sì, perché prima di tutto avete detto un sacco di quindi praticamente mi sono dimenticato quello che hai detto. Ci perebbe te a costa non è tre efficace fan ci vuole l'italiano con non so efficace. Ma posso in un'altra questione non mi sa va tu hai tu hai rispondi tu hai rispondi tu hai tradotto il ha tradotto c'è fait c'è fait. Oh là là. Tu nous excuses, mais pas de problème. C'est la première fois en fait qu'on a un invité francophone ou de toute façon pas italien. Ah, oui, okay. Et donc c'est juste vraiment une question d'organisation. Mais d'accord. Là, on va y arriver. On a confiance. Et donc voilà. Après, courage. On s'encourage. Donc. Continue à traduire ou tu veux lui faire? Continue. Ci sono io, però. Però dobbiamo andare per frasi piccole, altrimenti mi perdo il discorso. Sennò posso fare traduzione simultanea, se vuoi. Mentre in francese la faccio simultanea. Benissimo, mentre voi vi mettete d'accordo, io passo un altro brano di Stéphane Mercier, che lo prendiamo tratto da Moa Vasta Band, Mauro Gargano. Il pezzo è il primo del disco e si chiama When God Put a Smile Upon Your Face. Di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Buonasera dai colori dell'anima da Radio Alma 101.9, siamo qui in diretta da Saint-Gilles e se volete chiamarci il numero fisso è lo 02 345 26 56. La nostra pagina Facebook è Angelo e Carla On Air, potete chiedere quello che volete a Stéphane Mercier e anche a Paolo Loveri perché sto con gli italiani, quindi abbiamo invitato stasera un musicista, un jazzman come si definisce lui stesso, che ha parecchi progetti, non sappiamo quanti, adesso glielo chiediamo, vediamo se li ricorda, ha parecchi progetti con degli italiani, musicisti italiani e dice, quando abbiamo chiesto perché, lui dice che in fondo il jazz è cominciato tra gli italiani o comunque nativi dell'Italia, anche se immersi negli Stati Uniti, nella cultura jazzistica americana, ma... Il rigolo parce que il te le regarde comme s'il était en train de comprendre, en fait, mais il comprend rien de ce que tu dis. Donc la question c'est de savoir pourquoi tu joues avec autant d'Italiens et combien de projets tu as avec des Italiens. Ils sont curieux de savoir le nombre de projets que tu as. Le nombre, alors c'est difficile à dire parce qu'il y a des groupes où il y a une seule personne d'origine italienne. Mm-hmm. Ça suffit, ça compte. Alors pour l'instant ça doit faire, je ne sais pas, 4-5, quelque chose comme ça. 4-5 projets, ouais. Sans doute, dont Paolo. Oui. Et alors, je joue avec plusieurs Italiens à Paris, dont Chester Arlan, qui a un père. Il est né à Rome, il a un père allemand. Mauro Gargano et Francesco Berzati, qu'on vient d'entendre. Tu traduis peut-être au fur et à mesure Si tu veux que je traduis, en fait. Dis-je praticamente con. Molti progetti con gli italiani, cioè tra l'altro con me, anche in duo con un gruppo, e allora molto a Parigi un certo Chester, perché è nato a Roma, Mauro Gargano che abbiamo ascoltato da poco, e Berzatti che c'ha più un nome di footballer, di giocatore di calcio che di musicista jazz. E allora pianista Nicola Andrioli. E allora c'è pure un pianista, mm-hmm. Nicola Andrioli, che poi abita qui a Bruxelles, sì, che adesso suona con Philippe Catherine, pure questo pianista, mm-hmm. Bravissimo, 25 sì. Anni, una favola sì, di pianista. Sì, sì. Allora un petit mot sur ce qu'on vient d'entendre. L'album a été enregistré en 2009 et le ténor du groupe, qui est Francesco Berzati, il a gagné un prix qui est meilleur jazzman européen, okay, de l'année par l'Académie française. Dice che il disco è stato registrato in 2009 e il sassofonista Gargano ha detto Berzati ha vinto il premio come miglior sassofonista europeo praticamente. Per la France. In Francia. Mm-hmm. Ok, caspita. E dunque questo per quanto riguarda le tue collaborazioni con italiani, ma immagino che attualmente sei attivo in altri progetti anche con ovviamente belga, francese. Quali sono i tuoi progetti attuali? Mes projets. Tu as compris de tes campions, bien sûr. Oui, je crois que ça va. Tes projets actuels. Oui, mes projets actuels. Je prépare un album de duo avec pas un seul duo, mais ça va sans doute être un double album où j'ai des invités très différents, pas uniquement des guitaristes ou des pianistes, mais aussi d'autres souffleurs. Et on va utiliser la technique de réenregistrement pour s'amuser un petit peu, ça tu peux. Alors, praticamente dice che c'è un progetto importante che gli tiene a cuore, di duo, molti duo, con altri musicisti, non solo chitarristi e pianisti, ma anche con altri. Tu sei parte, sì, faccio parte pure io, cioè mi ha invitato a suonare il suo disco. Ma con altri musicisti, con altri sassofonisti, cantanti, batteristi, con il quale userà il metodo di registrare più piste praticamente per poter fare questi duo. E là tu parli di loop machine? Parli di loop machine? No, no, o... de multipiste. No, okay. Non loop, ma multipiste, praticamente registrare più piste con lo stesso musicista praticamente. Ok. Oui. Ah, okay. Maintenant on connaît plus les loop machines que les multipistes de nos jours. Mais sinon, je prépare un album de reprise de pop avec Paolo, avec un producteur qui habite à Londres maintenant. Wow. Et puis, il y a un deuxième album avec le groupe qu'on vient d'entendre, le groupe italien à Paris. Tu peux rappeler encore le nom du groupe? Oui, c'est Moavast, qui veut dire, apparemment dans le dialecte des Pouilles, qui veut dire « ça suffit ». Moavast. Oui, lui il vient de Bari. Okay, okay. Carla, mica aveva capito. Carla, il avait pas compris, hein? Moavast, je sais pas. Moavast. D'accord. Voilà, et puis autre chose, je prépare un... Un bel jour, arrête un peu. Oui, c'est ça. Mais oui, hein. Oufti. Mais ça, c'est lié, sinon, je prépare aussi un spectacle sur l'histoire du jazz. Ça, c'est un spectacle. Et pour dans un an, on va se déplacer avec une grande boîte de jazz sur des places publiques et expliquer l'histoire du jazz au public. Mais c'est du théâtre ou Non, c'est disons que il y aura quelqu'un pour parler et deux jazzmen sur scène avec des images. Tu as trois projets importants, uno che il disco dei duo, poi un altro progetto di reprise pop con un produttore che abita a Londra e poi uno spettacolo teatrale con me anche. Beh, registrare un altro disco col gruppo Moavast e allora uno spettacolo teatrale che poi tra l'altro penso sia che tra l'altro è con suo padre che è stato un giornalista della RTB che è una delle radio pubbliche qui in Belgio, certo. Molto importante, quindi uno spettacolo teatrale con lui, col suo padre Stéphane Jacques Mercier e al piano ci sta Charles perché è uno dei pianisti più importanti qui in Belgio tra l'altro. E da dove hai preso l'idea per questo spettacolo? D'où vient l'idée? On voulait faire. J'avais déjà joué avec mon père sur scène parce que il est poète aussi, donc il récitait des poètes et je jouais à côté de lui. Et on a toujours voulu refaire quelque chose ensemble, qui soit un vrai projet. On a voulu d'abord faire l'idée d'un spectacle sur les pères où on parlait de la filiation en général. Et finalement l'idée est venue de raconter le jazz. Et avec cette idée-là, on a tout de suite trouvé un gros producteur. Donc l'idée avait l'air bonne, avait l'air de prendre tout de suite. Ça a l'air bonne, en effet. Tu nous diras comment ça sera. Oui, dans un an, ça commence dans un an. Oui. D'accord. Oui, oui. Tu nous diras et peut-être tu peux venir ici pour en parler, inviter les gens. C'est gentil. Et avremo il traduttore. Non lo so, basta, perché mi sono un po' più difficile. Praticamente suo padre faceva delle letture di poeti e quindi, visto che voleva fare qualcosa, Stefano voleva comunque fare qualcosa con suo padre, insomma, in uno spettacolo con suo padre, hanno avuto l'idea di fare uno spettacolo sul jazz, praticamente fare una lettura sul jazz con il padre che fa tipo attore che recita e lui che suona col pianista praticamente. E benissimo, io sono sicuro che tutti i nostri radioascoltatori avranno voglia di mettersi in contatto con noi, quindi Giampaolo, vuoi ricordare le nostre frequenze, e la pagina Facebook e tutti i numeri? Grazie! E allora, voi ci potete seguire sempre da Bruxelles sulle frequenze di Radio Alma 101.9 FM oppure in diretta streaming dal sito www.radioalma.eu. Potete chiamare in studio al numero 02 345 26 56, ripeto 02 345 26 56, oppure seguirci sulla nostra pagina Facebook Angelo e Carla On Air. Oppure ancora inviare un SMS al numero di Angelo 0471 40 78 04 0032, per chi chiamasse fuori dal Belgio 471 40 78 04. E in questo momento noi so che ci sono tanti ascoltatori che stanno aspettando il momento del saggio e noi siamo pronti per lanciarlo. Questo saggio di questa settimana è un saggio molto particolare, io ve lo lascio gustare. A voi, radioascoltatori dei Colori dell'Anima sulle frequenze di 101.9 su Radio Alma, il momento del saggio. Ai Colori dell'Anima, dagli studi di Radio Alma, Angelo, Carla e Giampaolo, contro la crisi e problemi quotidiani che assillano i nostri giorni, sono orgogliosi di presentarvi il momento del saggio. Cari ascoltatrici e ascoltatori, buonasera a tutti. Sono il saggio. Nella puntata di oggi il tema trattato dai nostri amici è: perché stare con gli italiani? Un'ottima domanda, direte voi da casa, soprattutto perché noi siamo qui, fuori dal nostro paese, e la percezione che possiamo ricevere dagli autoctoni è chiaramente influenzata dal nostro essere espatriati e comunità all'estero, con conseguente afflusso di alti volumi, chitarre e mandolini, vino rosso e salsicce. Ma cosa succederebbe se le parti si invertissero? Cosa penserebbero i nordici se fossero loro nella nostra situazione? Per questa settimana il vostro devoto saggio vi invita a un esercizio mentale, un'astrazione ardita e piuttosto surreale. Immaginate l'Europa al contrario. Immaginate che il nostro paese, come pure la Spagna o la Grecia, godono di uno sviluppo economico e sociale invidiabile e che i nostri poveri vicini del nord Europa siano costretti ad emigrare a cercare lavoro in Italia, a lasciare i loro paesi e a venire a vivere da noi per un anno, due, magari a restare indefinitamente. Quali sarebbero i loro discorsi? Beh, certo, mi manca il mio paese, sono venuto in Italia 3 anni fa, è profonda nostalgia, ma d'altra parte qui c'è il lavoro. E cosa penserebbero di noi? Ma che ti devo dire, parlano tutti a voce alta, stanno sempre a mangiare pasta, il parmigiano, le verdure, le insalate, il pesce arrosto, il vino, ma vuoi mettere un fish and chips e la buona birra di casa? E poi basta con sto caldo e sto sole, ho tutta la pelle arrossata, voglio la bella nebbia di casa e quel freschetto la mattina e la pioggia nebulizzata che rende tutto così romantico. Un quadro un po' diverso da quello attuale, non credete? Direbbero: ma guarda, un po' mi sono stancato dell'Italia, sto sempre con i miei compatrioti e tutto sommato qui le cose non funzionano come dicono. Invece mi sa che me ne vado in Grecia, lì pare si trovi il lavoro alla grande. Ma quando vado in pensione, torno al nord. Cari ascoltatori e ascoltatrici, vediamo come le condizioni materiali possono influenzare le nostre percezioni della realtà. E se vi è venuto un certo sconforto, beh, possiamo pensare che in fondo 2000 anni fa era così. Solo che non c'era l'Erasmus. Una buona settimana a voi e a presto. Ai Colori dell'Anima, dagli studi di Radio Alma, Angelo, Carla e Giampaolo, la crisi e i problemi quotidiani che assillano i nostri giorni, sono stati orgogliosi di presentarvi il momento del saggio. Ogni lunedì dalle 21 alle 22 sulle frequenze di Radio Alma, Rosanna, Anna Maria, Cristina, Barbara, Roland, Donatella, Carla, Angelo, Giampaolo sono felici di ospitarvi in un programma tutto da scoprire. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai? Ogni lunedì dalle 21 alle 22 su Radio Alma, i colori dell'anima. E questa era Body Mamma and Soul, che bella, fantastica! Che bella, bravi! Forza amici di Facebook, postate commenti, dai, ritorniamo in studio! Stéphane Mercier, Paolo Loveri, Stéphane ovviamente al sassofono. Abbiamo detto che sei sassofonista, sai? Non so, adesso ho un dubbio. Abbiamo detto che sei un jazzista, ma abbiamo detto che sei un sassofonista. E Paolo Loveri alla chitarra, quindi questa Body and Soul. Fantastica, ci è piaciuta tantissima, tantissimo, siamo un po' emozionati, ecco. è stato intenso, è stato bello, ti ringraziamo, vi ringraziamo. E una domanda sorge spontanea. Marzullo, dove sei? Vieni il mio soccorso. Marzullo. Scusa, mi è venuto spontaneo. No, ma è vero. Ci devo tradire a te, per quale un ricordo. Merci. La musica ti ha preso corpo e anima? Cos'è? Est-ce que la musique t'a pris ton corps et un âme? Ah oui, mais bien sûr, depuis très longtemps. Je me rappelle de mes premiers émois, et ça remonte très loin, c'est aussi familial, et puis j'ai pu traîner très jeune dans des concerts et dans des studios d'enregistrement, et je me rappelle de la vibration du piano à la maison, qui est un vieux piano de l'année 1900, et c'est des choses qu'on n'oublie jamais. Ok. À quel point de la tua vita ti sei detto non basta, mi piace, lasciamo stare il pop, sì è bello, mi piace, ok, però voglio iniziare questo percorso del jazz, vediamo, voglio conoscere questo universo. À quel âge tu as commencé à laisser le pop et tout ça, et te dis je vais commencer que ce parcours dans le jazz. Ah oui. Si tu te l'es dit. Non, bien sûr. C'est vers l'âge de 14 ans que j'ai décidé d'être jazzman. Mais je faisais de la musique bien avant, et donc j'ai un parcours aussi qui est classique, de musique classique, et puis aussi de rock pop. Et puis je suis tombé sur des jazzmen, et puis dans mes professeurs, puis j'avais beaucoup de jazz à la maison, donc pour moi c'était facile de prendre un disque et de l'écouter. Et pourquoi proprio le jazz? Parce que d'abord il y avait quelque chose de très émotionnel qui m'intéressait, le fait que ce soit improvisé, et puis il y avait toute une esthétique jazz qui est revenue à peu près dans les années 80. Il y a commencé à avoir des films, le saxophone est venu très fort à la mode, donc le jazz revenait, et donc on y avait accès tout d'un coup beaucoup plus, les bandes dessinées, les médias, tout ça. Et puis aussi parce que, comme j'avais décidé d'être musicien... Pas trop long, si je le traduis aussi. Hein. D'accord, mais je me rappelle tout ce que tu as dit aussi. Je finis. Vedo Paolo qui commence à sudare. Però già fa caldo qui in studio, dovete sapere. Tu veux traduire déjà ça? J'ai oublié. No, quello che è stato bello sentire è che ha detto che lui per lui a casa era molto semplice prendere dei dischi di jazz e ascoltarli. Bello, questo è fantastico. Pensi che io ho cominciato la chitarra a 25 anni. Infatti questa è una cosa fantastica. E no, io... poi ha detto che negli anni 80 il sassofono è divenuto un po' la moda, e quindi le ha dato la possibilità di cominciare a studiare questa musica. E quindi... poi qualcuno che approccia il jazz a 14 anni, ma sinceramente è la prima volta che lo sento. Ce ne sono comunque. Ce ne sono? Sì, è raro a quell'età, però ce ne sono. C'è quelqu'un de rare. C'è quelqu'un de rare, quelqu'un qui commence à 14 ans. Pour répondre à la question pourquoi, c'est aussi parce que, comme j'avais décidé d'être musicien, je voyais qu'en jazz, il n'y avait jamais de fin. Et que en pop ou rock, soit ça marche, soit ça marche pas. Et puis ça me plaisait pas tellement. Le fait qu'il y ait une recherche et que on fait ça par passion plutôt que pour être célèbre ou riche, je me disais c'est qu'il doit y avoir quelque chose de beaucoup plus fort dans cette musique. Pourquoi est-ce que les gens continuent à le faire tellement? Alors que on peut en être très pauvre. Ça m'intéressait. Avresti potuto cominciare un percorso classico? Tu aurais pu commencer un parcours classique aussi. Non, mais ça m'intéressait pas d'être fonctionnaire. Faccio solo la domanda. Il y a un débat qui commence là. E questo era quello che volevo far uscire. C'était ça que je voulais entendre. Non, mais bon, la musique classique en saxophone, ça se résume à trois œuvres. Bravo Stéphane, je suis d'accord. On va faire Ravel, Berlioz, qui sont intéressants, et puis après on rentre dans la musique contemporaine classique que je déteste. Oui, c'est... Ok. Quindi dice giustamente Stéphane che nella musica classica, essendo stato introdotto il sassofono tardi nelle orchestre, questo, c'è poco da suonare per il sassofono classico, quindi ci si riduce a suonare due o tre cose dopo che si entra nella musica moderna contemporanea, che a lui non piace. e quindi e non vuole essere funzionale, non vuole, non fare, vuole, non vuole funzionale. Insegnare. Dai, okay. Dopo lo approfondiremo questo argomento. Tu veux pas donner cours, tu veux pas te fonctionner, en fait, voilà. C'est bien ça. Mm-hmm. Tu l'as été quand même. Oui, par nécessité. Par nécessité, tout le monde l'a été par nécessité, soyons honnêtes. Oui. E quindi, ma qui stasera con noi c'è anche Paolo Loveri, che, diciamolo, si è rinunciato ad un appuntamento galante stasera, sì, per essere qui con noi. Voi, sì. È stato un po' un invito all'ultimo momento e Paolo si è liberato, quindi... Direbbe mia nonna, Paolo, ma chi l'ha fatto fa? E me ce n'è un altro domani. Pure. Ah, vabbè, se si può recuperare, allora, anzi... La stessa. Così con la suspense, quando gli dici di no una volta la sera dopo. E qui mia nonna avrebbe detto, ah, Sablo, ok, è tecnico. Quindi dicevamo, tra le altre tante cose, che avete un progetto insieme. Sì, abbiamo un progetto insieme, ed è la prima volta che fate un progetto insieme, o questo è uno dei numerosi progetti? No, è la prima volta che facciamo un progetto insieme. Praticamente ci siamo conosciuti non moltissimo tempo fa, pas connu il y a longtemps, non molti, e quindi praticamente abbiamo cominciato a suonare assieme, e poi è arrivato questo François Legrand, che è il produttore che abita a Londra, volete fare un disco in duo, all'inizio era in duo, poi ho cominciato invitati qui, invitati là, partecipazione, ma siamo arrivati, ecco, non è combinato nel disegno, una buona decina di musicisti invitati. Quindi, Stefan and Friends, beh, fu. Paolo and oui. Ha trovato un video del bundle, ok. Sì, certo, lo puoi mostrare, la video di bundle su, ah, oui, d'accord. Dove siamo tutti e Castellucci, Bruno Castellucci. Ma che è un altro batterista italiano. Ma quindi questo è un CD vostro, duo più gli ospiti? Sì, o è... all'inizio era un duo più gli ospiti, poi è diventato un quartetto, poi è diventato addirittura un progetto quasi globale, di un collettivo, okay, di musicisti che stanno a Bruxelles, che si chiama, mm-hmm, il gruppo si chiama The Intrusive, mm-hmm, abbiamo chiamato, dove c'è una cantante praticamente di origini italiane. Intrusiva? No, non è intrusiva, che abita a Londra, okay, e che praticamente verrà a cantare, più altri musicisti. Che si chiama? La cantante si chiama Angela Ricci. Okay. Angela Ricci, se la vedi poi è nera, poi dall'altro. La prima volta gli ho detto parli italiano e lo parlava perfettamente. Quindi, perché ha vissuto a Roma, però abita a Londra. Sì, quindi la nostra comunità italiana può seguire gli artisti italiani del panorama jazzistico. Sì. Io sono convinto non fa mai male. Purtroppo nel nord ci sono un eschimo con gli occhi così, c'è una pizzeria, sono sicuro. Origini italiane. Okay. Siamo dappertutto, come un cancro. Progetti imminenti, progetti minori. Soirée imminente, concert imminent. Imminent, oui. Dove possiamo venire ad ascoltarvi insieme o separatamente? O... Ah oui, oui. Oh, ben, je joue aussi avec le Jazz Station Big Band. On joue, mm-hmm, une fois par mois. Là, je joue avec jeudi. Je joue avec une chanteuse polonaise qui s'appelle Jobin. Quindi giovedì à la Jazz Station, non? Oui, à la Jazz Station. Jeudi, c'est pas à la Jazz Station. Ok. Il faut que je regarde. Quindi andate sul sito di Stéphane Mercier per seguire. StéphaneMercier.net. www.stéphanemercier.net. Per gli italiani, Stefane con la Camercier.net. Stéphane Mercier. No, perché devi sapere, Stéphane, on a beaucoup de Siciliens, de Napolitains, de Salernitains, où je viens, que le nom Stéphane, si on dit Stéphane, on le va écrire avec Stéphane F. Avec la F. Donc, oui, bien sûr. Bien pas sûr. Seulement, non solamente a Napoli, ma anche al nord, anche a Milano. Anche a Milano. Cioè, non ci riabbassiamo. Dai. Allora, no, attenzione. Si aveva proprio napoletano e siciliano, dico io, non lo so. Je voulais dire, si tu peux traduire, il faut faire attention parce que avec mon nom, Stéphane Mercier, il y a un homonyme au Québec qui a fait la Star Academy au Québec et il a montré son derrière devant les caméras, à ne pas confondre avec moi. Che non bisogna confondere con un suo omonimo che al Québec, praticamente in Canada, che ha un chanteur pour minette, un cantante del voilà, che praticamente ha mostrato il suo culetto e quindi praticamente non vuole che sia confuso con lui in diretta alla Starac, praticamente come se fosse una specie di X Factor, mamma mia, laggiù, e si chiama Stéphane Mercier e si chiama Stéphane Mercier, un omonimo, oh no, siamo sicuri, Paolo, siamo sicuri che non è lui. Probabilmente, probabile, sì, che poi cerco di farci capire. Cioè, non lo conosco ancora proprio al 100%. Io vorrei dire una cosa ai nostri radioascoltatori, che siamo arrivati agli sgoccioli, questa puntata è volata, ma è volata perché Stefano ci ha messo proprio a nostro agio. Io, anche se magari in questo momento lui non capisce al 100%, volevo ringraziarlo, perché solo con una persona così alla mano, così malleabile e così propositiva si può fare anche una trasmissione in due lingue. Quindi a nome nostro ti ringraziamo tanto tanto tanto, Stéphane Mercier. Grazie anche a Paolo Loveri, che ci deve ricordare i tuoi prossimi appuntamenti, perché mi ricordo quella cosa a giugno, eh? A giugno. Quindi i colori dell'anima ti ringraziano tantissimo, però ti vogliono chiedere che colore scegli per questa trasmissione, perché sia i colori dell'anima, on chaque fois on doit choisir un couleur. Donc une couleur, un couleur. Tu dois choisir une couleur pour l'émission de ce soir. Ok. Fait, tu choisis quoi comme couleur? Que ça avait l'air de quoi ce soir, c'est ça? Oui, voilà. En gros. Non, il disait en bref que tu es très chouette. J'ai entendu, merci. Con piacere, per venire, comme on dit, je ne sais pas. Ou laisse tomber en fait. Ok, regarde. Laisse tomber. Le vert, je choisis le vert. Vert, vert. Tu choisis le vert? Oui. C'est écolo? Ok. Oui, oui. Ok, il a choisi le vert. Et padano, pure lui. Et padano, pure lui. Sì. Vabbè, è nordico, viene dal Belgio, capito? E un grazissimo a Paolo, che ci ha anche salvato in calcio d'angolo, diciamo. Un pochino, diciamolo. L'avresti dovuto fare anche senza di me. Vabbè, ce l'hai resa molto più facile, molto più piacevole. Ce l'hai arricchita tantissimo, quindi grazie di essere venuto all'ultimo momento. Sempre un piacere. Ti auguriamo buona fortuna per domani sera con la gonzella. Grazie. Che tutto vada bene, poi ci racconti, certo, i dettagli. Certo, vi racconto. Sulla prossima. Paolo, mentre la traccia numero 5 dell'album Walking the Soul Map di Stéphane Mercier Quartet, che si chiama Mael, ci vuoi dire i tuoi prossimi progetti? Beh, i miei prossimi progetti praticamente devo suonare con un sassofonista alla Jazz Station, che si chiama Fabrice Adnan, che è un altro duo che facciamo, col quale ho ripreso a suonare. E poi c'è questa tournée il mese di giugno con alcuni musicisti italiani, tra l'altro Marco Sannini, che viene da Napoli, e Tonino De Sensi, che è un calabrese che vive a Milano e che suona con Gigi Cifarelli, che viene a suonare. Ti ospiteremo, qui. Sei prenotato. Certo, Stefan. Verrò con Marco, e se volete con Marco, ma non vengono il lunedì. Ah, verrò, okay, il lunedì a fare magari la registriamo, dai, ci pensiamo. Stefan, est-ce que tu veux dire un dernier mot? Alors, je vais vous remercier, vous souhaiter longue vie. Merci. E courage encore. Beh, grazie Stéphane, merci. Noi facciamo i nostri consueti saluti. E grazie a tutti i nostri ascoltatori, a quelli che ci hanno contattato sulla pagina di Facebook, a quelli che sono fedelissimi e ci ascoltano ogni lunedì. Il nostro appuntamento va, come sempre, all'ultimo lunedì del mese, ma non il mese di dicembre, perché immaginate, siamo tutti in Italia a mangiare e farci chiatti come dei maiali nelle nostre case italiane. Quindi la prossima puntata